Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Il 16 gennaio, alle 6:30, il Marchica uccise, in ogni particolare eseguendo il piano preparato dal Pizzuco, Salvatore Colasberna. Ma ci fu un intoppo nell'incontro, a metà della via Cavour, mentre il Marchica fuggiva, col suo concittadino Paolo Nicolosi, il quale nettamente lo riconobbe e anzi lo chiamò per nome. Ne ebbe inquietudine, e questa sua inquietudine comunicò al Pizzuco quando, subito dopo, venne a raggiungerlo nella casa di campagna. Il Pizzuco si agitò, bestemmiò, poi calmato si disse «Non ti preoccupare, ci pensiamo noi». A bordo di un camioncino di sua proprietà, il Pizzuco lo accompagnò fino alla contrada Granci, a poco meno di un chilometro da B, ma prima gli consegnò a saldo altre 150.000 lire, che con quelle dell'anticipo facevano le 300.000 pattuite. Qualche giorno dopo, venuto il Pizzuco a B, il Marchica seppe che riguardo al Nicolosi non avrebbe più dovuto nutrire preoccupazione alcuna, essendo ormai, così testualmente si espresse il Pizzuco, buono solo a far trovare i pupi di zucchero ai bambini, riferendosi al costume del luogo di una specie di befana ai bambini nella ricorrenza del giorno dei morti, con doni appunto di pupi di zucchero. Da tale espressione del Pizzuco, il Marchica ebbe la certezza che Paolo Nicolosi era stato soppresso. A domanda se il Pizzuco agisse per conto di altri, dandogli il mandato di uccidere il Colasberna, il Marchica dice di non saperlo, ma a sua opinione lo esclude. A domanda se la frase «non ti preoccupare, ci pensiamo noi», detta dal Pizzuco, non esprima la partecipazione e il concorso di altri, ignoti al Marchica, ma complici del Pizzuco, il Marchica dice di escluderlo e anzi afferma di non potere in coscienza precisare se il Pizzuco abbia detto «ci pensiamo noi» oppure «ci penso io». A domanda se ha cognizione o sospetto del modo e del luogo in cui il Nicolosi è stato soppresso, dice di non sapere. Mentre parlava, Diego andava rasserenandosi, annuì soddisfatto alla lettura che il capitano gli fece della confessione e con soddisfazione firmò. Avendo sistemato la faccenda a danno di quella carogna del Pizzuco e suo, osservando la buona creanza di non coinvolgere altri, che carogne non erano, si sentiva in pace con la propria coscienza e rassegnato al destino. Forse il resto della sua vita avrebbe passato in carcere, ma a parte il fatto che c'era ormai l'abitudine, che il carcere era per lui un po' come la casa cui si torna volentieri dalla fatica di un viaggio, forse che la vita non era un carcere. Una continua tribolazione era la vita. I soldi che ti mancano, le carte della zecchinetta che ti chiamano, l'occhio del maresciallo che ti segue, i buoni consigli della gente e il lavoro, la dannazione di una giornata di lavoro, il lavoro che ti fa peggio di un asino, basta, meglio dormirci sopra ora. E veramente il sonno tornava a rapprendere, scuro, informe, ogni suo pensiero. Il capitano lo mandò a dormire, al carcere di San Francesco, in isolamento, rimandando così a distruzione compiuta i festeggiamenti che Diego avrebbe ricevuto dagli altri detenuti. Toccava ora al Pizzuco. Era già notte inoltrata. Incontrato in diversa circostanza, il Pizzuco avrebbe suscitato pena. Irrigidito dal freddo e dall'artrite, gocciolante dal naso e dagli occhi per un raffreddore che gli era improvvisamente esploso, smarrito per quello che gli accadeva, girava gli occhi lacrimosi in uno sguardo da sordo e apriva e chiudeva la bocca come se non trovasse voce per parlare. Il capitano gli fece leggere dal brigadiere la confessione del Marchica. Pizzuco sul Santissimo Sacramento, davanti a Gesù crocefisso, sull'anima di sua madre, di sua moglie, di suo figlio Giuseppe, giurò che quella di Marchica era un'infamità nera. E su Marchica invocò, fino alla settima generazione, la giusta vendetta del cielo, da dove, oltre ai suoi morti già mentovati, per lui pregava anche uno zio canonico morto in sospetto, era il caso di dire, di santità. Nonostante il raffreddore e l'angoscia, era un parlatore straordinario. Il suo discorso era fitto di immagini, di simboli, di iperboli, e in siciliano italianizzato, a volte efficace, a volte più incomprensibile del dialetto schietto. Il capitano lo lasciò un po' sfogare. «Dunque», domandò poi freddamente, «lei non conosce nemmeno questo Marchica», che così pareva avesse voluto affermare nel suo lungo discorso. «Per conoscerlo, signor capitano, lo conosco, e che mi avessero ammazzato prima di conoscerlo, forse sarebbe stato meglio. Lo conosco e so quanto vale, ma che tra me e lui ci siano mai stati rapporti così stretti, e poi, per togliere, Dio ne scansi, la vita a un cristiano. Mai, signor capitano, mai. Per Rosario Pizzuco la vita di un cristiano, di ogni cristiano, sta come sull'altare maggiore di una chiesa. È sacra, signor capitano, sacra. Dunque lei conosce il Marchica? Lo conosco. Posso dire di no. Lo conosco. Ma è come se non lo conoscessi. So di che pasta è fatto e sempre mi sono tenuto alla larga. E come spiega questa sua confessione? E che la può spiegare? Forse è uscito di senno, forse si è messo in testa di rovinarmi, e chi può leggere nella testa di uno come lui? La sua testa è come una di quelle melegranate amare. Ogni pensiero suo è un chicco di malizia, da fare allegare i denti di spavento a uno come me. Capace di ammazzare uno così perché non ha risposto al suo saluto o perché non gli piace come ride. Delinquente nato. Lei ne conosce benissimo il carattere. E come no? Se l'ho avuto sempre tra i piedi. E in questi ultimi tempi se lo è trovato tra i piedi qualche volta? Cerchi di ricordare. Vediamo. Appena uscito di galera l'ho incontrato ed è la prima. Poi l'ho incontrato a B, nel suo paese, ed è la seconda. Poi è venuto a S, ed è la terza. Tre volte, signor capitano, tre volte. E di che cosa avete parlato? Di niente, signor capitano, di niente. Cose che tanto sono inutili, che si scordano subito, come se uno scrivesse su una pozza d'acqua. Rallegramenti per la libertà riguadagnata, e uno intanto pensa che c'è spreco di amnestie, auguri che si possa godere la libertà, e uno pensa che non passa molto ed è di nuovo in galera. E com'è l'annata, com'è il tempo, come stanno gli amici, cose inutili. Secondo lei, per quanto la riguarda, non c'è niente di vero in quanto afferma il Marchica. Ma, lasciando per un momento da parte il Marchica, a noi risulta con assoluta certezza che lei, circa tre mesi addietro, se vuole posso dire la data esatta, ha avuto un colloquio con Salvatore Colasberna e gli ha fatto delle proposte che il Colasberna ha respinto riguardo a consigli, signor capitano, consigli, disinteressati per buona amicizia. Se lei è in grado di dare consigli, vuol dire che è bene informato, bene informato. Cose sentite qua e là per il lavoro che faccio, sto sempre in giro e sento oggi una cosa, domani un'altra. E che cosa ha saputo da sentire il bisogno di dare consigli a Colasberna? Ho saputo che le sue cose andavano male e gli ho consigliato di cercare protezione, aiuto. Presso chi? Ma non so, presso amici, banche, cercando di infilarsi in politica per il canale giusto. E qual è, secondo lei, il canale giusto in politica? Direi quello del governo. Chi comanda fa legge, e chi vuole godere della legge deve stare con chi comanda. Insomma, lei non aveva consigli precisi da dare a Colasberna? No, signor capitano. Gli dava dei consigli così, generici, diciamo, e solo per amicizia. Giustissimo. Ma non era poi tanto amico di Colasberna. Ci conoscevamo. E lei, ad uno che appena conosce, si prende il disturbo di dare dei consigli. Sono fatto così. Se vedo che ad uno gli scivola il piede, io sono lì a dargli una mano. E ha mai dato una mano a Paolo Nicolosi? E che c'entra? Perché dopo aver dato una mano a Colasberna, era nell'ordine delle cose dare una mano a Nicolosi. Suonò sul tavolo il telefono. Il capitano ascoltò la comunicazione e intanto scrutava il pizzuco che ora appariva più calmo, più sicuro e nemmeno sgocciolava per il raffreddore come quando era venuto. Posando il telefono disse: «Ora possiamo ricominciare». «Ricominciare?» domandò Pizzuco. «Sì, perché questa telefonata da esse mi ha informato che è stata trovata l'arma che ha ucciso con la sberna. Vuole sapere dove è stata trovata?» «No, non pensi male di suo cognato. Stava proprio per eseguire l'ordine che lei, quando sono venuti i carabinieri ad arrestarla, gli ha dato. Si è recato stasera in campagna, ad ora tarda. Ha preso il fucile a canne mozze e stava uscendo per disfarsene proprio mentre i carabinieri arrivavano. Una sfortunata coincidenza. Suo cognato, lei lo conosce bene, si è visto perduto. Ha detto che l'incarico lo aveva avuto da lei e che il fucile avrebbe dovuto nasconderlo nel chiarchiaro della contrada Gramoli, secondo istruzioni ricevute da lei. E rivolto al brigadiere domandò: «Ma che cos'è il chiarchiaro?» «È una zona pietrosa», disse il brigadiere, «un insieme di grotte, di buche, di anfratti». «Lo avevo intuito», disse il capitano, «e mi viene un'idea che forse è buona, forse no, ma tentare non nuoce. E se nel chiarchiaro si trovasse anche il corpo del Nicolosi? Lei che ne dice di questa mia idea?» E si rivolse con freddo sorriso al Pizzuco. «Può essere buona», disse il Pizzuco impassibile. «Se lei la prova sono tranquillo», disse il capitano, e chiamò al telefono la stazione di S per ordinare le ricerche nel chiarchiaro di Gramoli. Nel tempo della telefonata, il Pizzuco prontamente squadrò il piano che gli conveniva adottare. Quando il capitano disse: «Ora lei può mettersi sulla linea del Marchica, confessando di avergli dato il mandato di uccidere con la sberna e confessando di aver ucciso Nicolosi, o scagionare il Marchica, confessando di aver ucciso e il Colasberna e il Nicolosi», Pizzuco aveva già scelto una terza linea, che veniva stranamente a coincidere col falso verbale che aveva provocato la confessione del Marchica, solo in un punto discostandosene. Erano in gamba i marescialli che avevano preparato il falso verbale. Conoscevano la psicologia di un uomo come Pizzuco con precisione scientifica. Non c'era da meravigliarsi che Diego Marchica ci fosse cascato come in pentola un cappone. Disse infatti Pizzuco che circa 3 mesi prima, avendo incontrato con la sberna, per dovere d'amicizia, benché non fossero poi tanto amici, aveva voluto dargli qualche consiglio relativo alla condotta da tenere nella sua attività di appaltatore edile. Ma invece che espressioni di gratitudine, come il Pizzuco si aspettava, il Colasberna gli aveva rivolto in termini irripetibili invito a non occuparsi di cose che non lo riguardavano. E doveva un ringraziamento al Signore se lui, Colasberna, non gli faceva, precisa espressione, cogliere da terra tutti i denti, facendoglieli cioè cadere a forza di pugni. Di questa reazione del Colasberna il Pizzuco, uomo di miti sentimenti e soltanto per incorreggibile bontà a volte portato a situazioni incresciose, ne aveva avuto dolorosa offesa. E trovandosi a parlarne occasionalmente col Marchica, questi si offerse a farne vendetta anche senza compenso alcuno da parte del Pizzuco, avendo personali motivi di risentimento nei riguardi del Colasberna. Il Pizzuco ebbe orrore della proposta e recisamente rifiutò. Ma qualche giorno dopo il Marchica venne ad esse e gli chiese ospitalità nella casa di campagna di proprietà della moglie del Pizzuco, situata nella contrada Poggio, in vicinanza del paese di esse, soltanto per una notte, trovandosi ad avere affari importanti ad esse ed essendo il paese notoriamente privo di alberghi. Lo pregò il Marchica di prestargli un fucile, avendo intenzione nelle prime ore del giorno di fare un giro di caccia nella contrada che gli avevano detto essere particolarmente ricca di lepri. Dandogli la chiave della casa di campagna, il Pizzuco gli disse che avrebbe trovato sul posto un vecchio, vecchissimo fucile, non proprio adatto alla caccia, ma che poteva servire. Non ebbe sospetto della trama delittuosa del Marchica, per natura essendo fiducioso e sempre disposto a favorire chiunque. Nemmeno quando seppe della morte di Colasberna ebbe sospetto, e soltanto quando i carabinieri andarono a casa sua per arrestarlo, gli apparve chiaro il terribile imbroglio in cui il Marchica, carpendo la sua buona fede, lo aveva cacciato. E perciò diede istruzioni al proprio cognato di far sparire il fucile di cui, ormai era chiaro, il Marchica si era illecitamente servito. Ciò gli era parso il miglior partito da prendere, non potendo, stante la natura vendicativa del Marchica, rivelare spontaneamente alle autorità di pubblica sicurezza i fatti di cui era vittima. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.